9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci qua a commentare la vittoria di Pierluigi Bersani dopo oltre 3 milioni di elettori che hanno pagato i loro 2 euro, si sono iscritti a Gazebo e lo hanno indicato con più del 50% dei voti. Queste erano le regole del gioco come segretario del PD. Non si sa ancora in realtà qual è la percentuale precisa, però per universale ammissione di tutti sarà superiore al 50%, anche se questa notte sembrava il 53%, poi il 50,5%, insomma non si sa, però Bersani in definitiva è il segretario e bisognerà vedere con quali conseguenze. Sui giornali di oggi già si aprono delle riflessioni, La Stampa per esempio è la più decisa nell'annunciare che Francesco Rutelli, lo abbiamo avuto ai nostri microfoni pochi giorni fa, annuncerebbe domani stesso a Milano di andarsene. Adesso Rutelli si prepara ad andarsene davvero, il titolo che recita La Stampa a pagina 3. Il Corriere della Sera schiera un commento in prima pagina di Paolo Franchi, in cerca di alleati, non maschera la soddisfazione sicuramente per la vittoria di Pierluigi Bersani, cioè il candidato che più aveva contrassegnato la propria leadership con l'ambizione di disegnare un PD che tornasse a essere più nettamente un partito socialdemocratico nell'ambito quindi di una grande tradizione ben presente negli altri paesi europei, piuttosto che un aggregato che non aveva riferimento in nessuna delle grandi famiglie storiche politiche del nostro paese, e così via. Ogni giornale articola i suoi commenti. Vediamo i nostri ospiti di oggi come la vedono e vediamo come la vedete, la pensate voi. Chiamate l'800 24 00 24. Abbiamo intanto collegati, e io li ringrazio di questo, Giampaolo Panza, che è editorialista di Libero. Buongiorno Panza. Grazie, di Libero e del Riformista. Di Libero e del Riformista, certamente. E poi abbiamo Emanuele Macaluso. Emanuele Macaluso è una persona straordinaria, una lunghissima milizia politica nel Partito Comunista, è stato un grande direttore storico dell'Unità, ora dirige le ragioni del socialismo. Buongiorno Macaluso. Buongiorno. Ecco, io vorrei cominciare da lei Macaluso. Dal suo punto di vista, la vittoria di Pierluigi Bersani e con queste modalità, con queste regole, comunque anche con questa partecipazione molto alta, che sicuramente è una prova di forza, di radicamento, qual è la sua prima opinione? Meglio così innanzitutto, e questo che cosa potrà voler dire per il futuro, dopo mesi di confusione obiettivamente e di un apporto alla politica nazionale del PD dentro queste regole un po' confuse e questo confronto non molto chiaro che sembrava farlo perdere di giorno in giorno, di settimana in settimana a peso specifico, come la vede lei? Ma io penso che l'ho già scritto qualche settimana fa sulla mia rivista, che la elezione di Bersani è un punto fermo, nel senso che Bersani metterà in un porto questo partito che da anni viaggia in un mare aperto in gran tempesta, a vista d'occhio, diciamo così, non ha avuto mai un certo approdo. Io penso che Bersani può fare questa prima operazione. Per quel che riguarda l'affluenza, per quel che è importante, sono 3 milioni, eccetera, io resto ferma dell'opinione che il segretario di un partito, come avviene in tutto il mondo, deve essere eletto dagli iscritti, perché se gli iscritti in definitiva non decidono la politica di quel partito e non decidono il segretario, non capisco che cosa decidono. L'altro giorno in un dibattito alla radio anch'io, mi pare, ho sentito un sostenitore di questa tesi, quale diceva, della tesi opposta, cioè di quello che c'è oggi, diceva: oh no, gli iscritti devono fare le feste dell'Unità, devono fare vivere la sezione, cioè devono fare le frittelle. Ora, che ci siano degli iscritti al partito addestrati a fare le frittelle della festa dell'Unità e non decidono la politica e il segretario, mi sembra troppo. Altra cosa è che le primarie servano per eleggere, per nominare il sindaco, il presidente della regione, il candidato alla presidenza della regione, il candidato alle elezioni nazionali, questo mi va bene. Quindi non critico io la partecipazione, anzi io penso che in questa occasione, dopo il caso Marrazzo, 3 milioni che vanno a votare, significa che c'è una quota importante di simpatizzanti, di aderenti, di sostenitori di questo partito, che vogliono fare sapere anche agli avversari che sono in campo. Per il futuro io vedo una difficoltà, non solo per gli enormi problemi che un segretario deve affrontare su temi come le riforme costituzionali, la giustizia, il welfare, le tasse, il mezzogiorno, la criminalità, cioè, insomma tutti sono problemi enormi, ma io penso che tipo di maggioranza farà questo Bersani, perché lui se ha il 50% e più, 51, 52, 53, farà una sua maggioranza con una dialettica interna, può darsi, io non vedo nulla di strano, perché non c'è dubbio, siccome si parla di unità nuovamente, beh, le posizioni sono state molto diverse, non solo diverse, ma io dico molto diverse. È la piattaforma politica che è stata completamente diversa, perché mentre il Franceschini attesa a dire nessun rapporto tra governo e opposizione, nemmeno sulle riforme costituzionali, nulla, guerra e basta, Bersani ha detto un'altra cosa, no, su queste cose bisogna fare avere un rapporto, possibilmente delle intese, ha anche detto che per il futuro bisogna fare delle alleanze e non andare soli, quindi sono scelte di fondo, non sono scelte, piccole scelte, quindi lui si troverà di fronte al fatto che bisogna costituire un governo del partito che abbia una linea, perché se si va a fare polpettoni senza una linea, sì e no, dicono e non dicono, vanno e smentiscono, io penso che questo partito non uscirà dalle secche in cui si trova. E infatti per questo sottolineavo che se Shino Lindaluani, della sua vittoria, prima cioè di poter articolare questo nuovo programma, questa nuova indicazione interna di leadership, queste scelte che hanno diviso da mesi e mesi il PD, tipo a quale tipo di coalizione andare, mi pare di capire che l'indicazione di Bersani sia quella di tornare a un'alleanza possibile dall'UDC da una parte fino alla sinistra antagonista che non sta più in Parlamento dall'altra, ma se dall'indomani stesso di questa vittoria Francesco Rutelli e altri, bisogna vedere qua, domani, dopodomani annunceranno che se ne vanno, sicuramente le questioni si complicherebbero. Ecco, abbiamo collegato anche il presidente emerito della Repubblica, no, è appena caduta la linea naturalmente, con Cossiga è così, comunque è Francesco Cossiga che ci aveva raggiunti, con Francesco Cossiga sapete è sempre un po' complicato, è tornata la linea, quindi ho saluto il presidente emerito, prego Giampaolo Panza di aspettare un secondo. Presidente Cossiga, lei in un libro che, buongiorno innanzitutto, come sta? Ciao Oscar. Lei nel libro che era uscito poco tempo fa di Claudio Sabelli Fioretti indicava Pierluigi Bersani, nel caso in cui gli italiani votassero alle prossime politiche dando la maggioranza al centro-sinistra, come il futuro presidente della Repubblica addirittura, quindi non è sospettabile di essere un gran critico di Bersani, per così dire. Io non sono tipico Bersani, noi vecchietti, lui è molto meno di me, che abbiamo fatto come l'amico Macaluso parte della prima Repubblica, e adesso ci sentiamo non in circoli di bocioffi vedendo gli attuali partiti, ma ci siamo tutti circoli, sa quello che si fanno, i giochi dei bambini che col gessetto si fanno il quadrato e poi bisogna saltare con un piede l'altro. Sì, è anche vero che, se mi permette, lo dico io che sono un po' più giovane rispetto a questi, voi vi dovreste sentire come nel Pritaneo di Atene, cioè più, ecco, che sentirmi in pensione. Io ho sempre votato la DC finché era possibile, poi ho votato il PPI, poi il partito di transizione UDR, di cui sono stato i fondatori, con lo scopo di abrogare la convenzione dell'escludendum e ha portato, portando insieme agli altri alla presidenza del Consiglio Massimo D'Alema, qualche volta ho votato il DS, non ho votato la Margherita, ho votato un Partito Democratico, ma credevo che il mio voto fosse meno sprecato di quello che ho stato. Ho avuto un carteggio pubblico sul tempo con Dario Franceschini, che è della stessa scuola, cioè lui era degli imbroglioncelli dei gruppi giovanili della DC, spiegandogli perché avrei votato il PD. Se fossi dovuto andare a votare, sarei andato, salvo questo fatto, l'impegno ai valori e agli ideali, un documento scritto da Franceschini, non me ne può fregare meno, insomma. Avrei votato per Bersani. Perché avrei votato per Bersani? Perché con Bersani abbiamo la certezza di una linea. Non di queste fumoserie riformiste, perché il riformismo in Europa si chiama socialismo, si chiama, è vero, anche liberal democrats nel Regno Unito, ma noi non possiamo far paragoni col Regno Unito. Noi siamo in un sistema bipolare, non bipartitico, e sistemi bipolari perfetti come quello britannico o anche quello tedesco conoscono un terzo partito, il partito Freie Partei, cioè il partito liberale tedesco, che però per esempio sui diritti dei lavori, sui diritti civili è più a sinistra, il leader è un gay dichiarato che ha fatto tutta la campagna elettorale con il suo compagno, e su alcune cose i liberal democrats inglesi sono molto più pacifisti, mentre i conservatori e i laburisti si sono trovati a favore dell'impegno britannico nell'Iraq. Come lei vede, la situazione in Iraq è perfetta. Certo. Non appena si sono ritirate le truppe alleate è stato ricostituito un clima di libertà, subito ieri 150 morti di Al-Qaeda, insomma. Per cui le guerre non bisogna farle, bisogna farle fino in fondo, ma questo è un altro discorso. Comunque lei dice, vista la storia, la tradizione italiana, in cui non abbiamo formazioni terziste, riformiste, paragonabili di storia, eccetera, tanto vale scegliere con sicurezza una prospettiva socialdemocratica. Sappiamo che cosa imbocchiamo con Bersani. Questa mi pare. Ecco. Come ci sono dei paesi scandinavi, dei paesi ex comunisti e così via. Un socialismo che tra l'altro qui si arricchisce di una eccezionale patrimonio culturale, basta, non so, pensare a Gramsci o a Togliatti o a Marchesi, di un grandissimo patrimonio politico, pensiamo a Togliatti che battezza, che ha il coraggio ancora in clima di Comintern di chiamare, non come si usava, Partito Comunista d'Italia, ma Partito Comunista Italiano, pensiamo al coraggio di Enrico Berlinguer. E poi non è che noi ci possiamo inventare delle culture politiche, le idee politiche. E poi riformismi, i partiti di ispirazione democristiana, io ero della sinistra di base della Democrazia Cristiana, tutti i partiti democristiani, salvo il partito catalano e il partito nazionalista basco che è uscito però dal Partito Popolare Europeo, sono tutti partiti assolutamente moderati. Ormai i partiti moderati del Partito Popolare Europeo sono la destra che ha di fronte a sé il Partito Socialdemocratico, così almeno la gente comincia a capirne, insomma. Oh, ma Panza, ma questo Veltroni verrà consegnato quindi alla storia come uno dei più fumosi inconseguenti leader politici, perché qui mi pare che gente di tradizioni diverse, opinioni diverse, però converge nel dire così si capisce dove si va. Invece tutto quello che è venuto dalla svolta di Veltroni è qualcosa, nella migliore delle ipotesi, che non è riuscito, nella più radicale delle ipotesi di sbagliato. E si gira davvero pagina, secondo lei, Panza? Ma dunque, che si giri pagina lo sapremo tra qualche tempo. Però voglio dire una cosa, in parte diversa, ma anche con molto consentanea con quello che ho sentito dire dal Presidente Cossiga e da Emanuele Macaluso. Ieri sera, verso mezzanotte, quando ho sentito alla TV che era stato eletto Bersani, leader del Partito Democratico, ho provato un moto di sollievo. Un moto di sollievo perché finiva il carnevale di Veltroni e di Franceschini, perché la cosa drammatica che abbiamo visto a sinistra a partire dal febbraio di quest'anno, quando Veltroni, dopo l'ennesima batosta in un'elezione regionale, in quel caso della Sardegna, si è dimesso, ha lasciato in regalo al Partito Democratico e comunque al sistema politico italiano questo signore di Ferrara, che era assolutamente al di sotto dell'incarico. Confesso che non mi ricordo per quale motivo il magico Walter avesse scelto Franceschini, forse perché pensava che fosse un aiutante dirigente. Ma quando da aiutante Franceschini è diventato il generale, ma è cominciato un carnevale pazzesco, dove Franceschini via via ha sempre di più assunto un atteggiamento che a Roma, lo ripeto, non si offenda naturalmente il grande Dario ormai ex, ma lo dico dal punto di vista politico, del cazzaro. Cioè, ha fatto delle cazzate una dopo l'altra. Ma ce ne sono un'infinità, io ne ho raccontate tante nei miei pezzi, ma per fermarci a quelle degli ultimi giorni, la trovata del calzino turchese era la cosa più cogliona che potesse venire in mente a un segretario di partito. Dopodiché ha tirato fuori il vice nero, perché era un deputato bravo, intelligente, ma lui disse: lo sceglievo perché è nero, il colore della pelle è nera, forse sperava che tanti neri andassero a votare per lui alle primarie. Poi ha detto che ci sarebbe stato un secondo vice, che era una signora, una donna, ma avrebbe rivelato il nome in seguito. Dopodiché ha continuato a... Poi aveva quest'aria da maestrone autoritario, era una specie di Ras che prometteva sempre guerra. Mi è rimasta in mente una cosa: quando il centrodestra, in un momento di lucidità, Berlusconi o chi per lui, dice bisogna riformare la giustizia in Italia, però dobbiamo farlo d'accordo con l'opposizione, cosa fa il segretario dell'opposizione? Dice: va bene, vediamoci, discutiamo. Lui immediatamente ha detto: no, se verrò eletto segretario del PD, anzi se verrò rieletto segretario del PD, io non andrò mai a un incontro con Berlusconi sulla riforma della giustizia. Ma uno così è da... Ma ci vuole l'ambulanza, scusi. Ma ci vuole l'ambulanza, che per fortuna l'ambulanza gliel'hanno fabbricata gli elettori del Partito Democratico che sono andati a votare alle primarie. Ma tu te ne aspettavi così tante? Ma io sì, penso di sì, perché c'è un elemento assolutamente evidente, che era l'unico modo per cui gli italiani potevano dire di no a Berlusconi. Se vogliamo, più che un referendum sul partito, su chi doveva essere il segretario del PD, era una specie di grande mobilitazione di massa. Le sinistre le ama molto queste cose, ma nel caso di quello che è avvenuto ieri è un fatto positivo, di dire: guardate, siamo qua, ci siamo ancora, siamo tanti, adesso poi non so se saranno davvero 3 milioni, perché adesso vengono fuori che si votava in maniera plurima a volte, il cronista che ha votato 3 volte, non so, comunque ha fatto anche la parte mia, che non sono andato a votare perché, non avendo fiducia in questo PD, mi sono risparmiato il viaggio fino al seggio elettorale. Però certamente una cosa positiva esiste e riguarda l'oggi, e con un'occhiata a ieri. Bersani, l'ho anche scritto parecchie volte, tanto sul Riformista che sul Libero, è un personaggio coi piedi per terra, avrà un lessico antico, come ha osservato Miguel Guttor sul Sole 24 Ore, parlerà come parlava mio zio, ma bene, perché no? L'Italia è un paese di anziani, ma è un paese, e infatti ieri le riprese televisive dei seggi non facevano vedere che sfilate di capelli grigi e bianchi, e la gente è andata a votare per far sapere a Berlusconi che c'erano anche loro, che insomma anche lui tanto giovincello non è, e quindi insomma il confronto sia almeno tra linguaggi concreti e piuttosto che solo su leadership mediatiche. Sì, Franceschini anche secondo me ha inseguito troppo questo aspetto virtual fumoso della leadership, il colpo di scena con la battutina sciocca, queste cose qui che del giorno per giorno, dell'ora per ora, dell'inseguire la dichiarazione e le agenzie come se la politica poi fosse quello. E certo è diventata anche quello, ma se diventa solo quello, poi il rischio di fare degli autogol autoribaltanti è quello che poi porta a non far decollare le leadership. Eccoci tornati in studio, stiamo parlando della vittoria di Pierluigi Bersani alle primarie, quindi da oggi è ufficialmente il leader del PD, si torna a una linea politica precisa, finisce il gran pasticcio post-veltroniano, una linea più socialdemocratica, vedremo come articolare le sue alleanze in vista delle prossime elezioni politiche da una parte e soprattutto come registrerà i suoi rapporti con il governo Berlusconi dall'altra. Sentiamo alcuni di voi come la pensano. Claudio da Bergamo, prego Claudio, dica in fretta però. Buongiorno Giannino, no, io sono d'accordissimo infatti con il Presidente Cossiga e anche con Panza. Secondo me Bersani è la persona giusta, io sono un elettore di centrodestra. Perché, però dice, perché dice che è giusta da elettore del centrodestra? Perché è una persona coerente, perché è etico, perché è umile e soprattutto perché non è arrogante. È una persona che soprattutto è concreta e può portare un'opposizione a fare l'opposizione seria. Penso però una cosa, l'unica speranza che ho io è che non ricominci con la menate su Berlusconi, il conflitto di interessi, l'aria fritta che insomma alla fine è uno sfinimento, non ne possiamo più. A noi delle chiacchierate su Berlusconi non ci interessa assolutamente, ci interessa tirare fuori questo paese fuori dal fango. Grazie Claudio, vedremo quale sarà il tono, ripeto, nei confronti di Berlusconi e del governo. Io temo che più di tanto non potrà soddisfare il direttore del centrodestra, cioè io sono per esempio curioso, questo lo chiederò io agli ospiti subito, come la metterà con Di Pietro. Chi ieri ha ascoltato Antonio Di Pietro, ospite di Fazio in televisione, ha ascoltato un proclametto di quelli con i quali un programma socialdemocratico riformista secondo me non ha molto a che vedere. Questo è il mio giudizio, perché sentir dire che basta che un qualunque magistrato in Italia apra un qualunque fascicolo su qualunque imprenditore, quell'imprenditore non può più lavorare fino a che non finisce il processo in giudicato e nessun uomo politico si può più candidare fino a che il processo non va giudicato, al paese mio significa rendere un qualunque magistrato il vero decisore ultimo dei diritti politici di tutti. Allora quello col riformismo socialdemocratico secondo me non ha niente a che vedere, però vedremo il Bersani cosa ci dirà. Fabrizio da Roma, prego Fabrizio in fretta. Sì, buongiorno a tutti, volevo riprendere un attimo l'intervento di un vostro ospite che mi è sfuggito chi fosse, è una riflessione che io condivido appieno ed è poi il motivo per cui non sono andato a votare le primarie, ossia questa stravaganza di dover io elettore scegliere il segretario del partito, insomma. Era Macaluso che diceva che gli iscritti devono sceglierlo. Esattamente, cioè la segreteria è, da che mondo è mondo, è sempre stata una linea politica decisa dai tesserati. Quindi lei è d'accordo? Lei è d'accordo. Sono d'accordo assolutamente, ed è il motivo per cui io non sono andato a votare, perché diciamo è una truffa, a parte un po' questa stravagante formula elettorale, però lasciamo stare un po' questo, però è assurdo che io elettore scelga la linea politica del partito. Grazie, grazie Fabrizio. Cosa diversa è magari se l'elettore invece non può essere coinvolto nell'indicazione del premier per vincere le elezioni, che cosa diversa dal segretario del partito. Ancora Giuseppe dalla provincia di Modena, poi torniamo con i nostri ospiti. Giuseppe, prego. Buongiorno, io telefono dalla provincia di Modena, sono iscritto al Partito Democratico. Volevo dissentire soprattutto dell'intervento del vostro ospite in studio che ho sentito prima della pubblicità. Soprattutto perché secondo me mi sembra ingeneroso nei confronti di Franceschini dire che... Era Giampaolo Panza. Ecco, che abbia traghettato il Partito Democratico dopo le dimissioni di Veltroni, ma secondo me va vista sotto un altro aspetto. Soprattutto perché subito dopo la vittoria elettorale del PDL e la sconfitta del Partito Democratico in Sardegna, le dimissioni di Veltroni avevano fatto un tracollo al Partito Democratico e Franceschini aveva, come vice segretario del Partito Democratico, aveva un ruolo delicato in quel momento. No, agli atti ha tentato di svolgerlo, ma erano i giudizi su come l'ha svolto, non sul fatto che fosse un compito facile. Esatto, però come l'ha svolto? Secondo me con una potenza mediatica che ha il Presidente del Consiglio, secondo me è capace di distruggere chiunque persona gli si mette davanti. Allora, se voi vi ricordate Antonio Di Pietro, faccio un piccolo esempio, Antonio Di Pietro 20 anni fa, quando scoperchiò la pentola delle tangenti di Milano, c'era un popolo italiano, sì, che era disposto a fare un monumento a Di Pietro davanti al Duomo, sì, di Milano. Poi? Ecco, voi adesso la popolarità di Antonio Di Pietro in Italia qual è? no, che viene deriso dal popolo perché non sa parlare italiano. Ma va bene, Giuseppe, ho capito. Agli atti la sua difesa del compito difficile di Franceschini. Personalmente, guarda, glielo dico proprio fuori dai denti, che Di Pietro abbia pochi voti e che non sia in una posizione centrale nella politica italiana, a me non pare. Glielo dico proprio con grande sincerità. Poi io su questo sono esplicitamente polemico, pur rispettando tutti i voti che prende Di Pietro, l'intransigenza con cui fa politica, le sue tesi che non condivido. Detto questo, non mi pare che Di Pietro, svestita la toga, sia diventato una vittima, ecco, non mi pare proprio. Mi pare che, mi pare che da anni capitalizzi molto quello che ha fatto, con una funzione che secondo me dovrebbe essere resa incompatibile con l'esercizio in tempi così brevi e poi di mandati politici. Incompatibile, questa è la mia opinione, lo dico da liberale che rispetta la separazione dei poteri. Torniamo un secondo all'opinione di Macaluso. Se lei dovesse dire, Bersani come contraddistinguerà il suo rivolgersi a Berlusconi, che si aspetta? Si aspetta un dialogo, stagione di riforme, giustizia e cose, oppure no? Ma io mi aspetto che questo partito faccia anzitutto l'opposizione. Io non sono d'accordo con quello che ha detto un signore che è intervenuto, che il conflitto di interesse è niente. No, no, il conflitto di interesse in una democrazia parlamentare è un problema grave e serio. Il problema è un altro, il problema è quello che un po' avevo accennato. Siccome c'è in gioco le riforme istituzionali e costituzionali, e sono in gioco per un motivo che io dico molto brevemente, che è questo: l'Italia, la Costituzione italiana dice che l'Italia è una repubblica parlamentare. Con le leggi elettorali che sono state fatte, con altri interventi, questa Repubblica parlamentare non si sa più se sia parlamentare o no, perché nella Repubblica parlamentare, come dice la Costituzione, il Presidente del Consiglio lo indica il Capo dello Stato, il quale dice... E qui invece abbiamo oramai l'indicazione del nome sulla scheda elettorale. Questo ecco, l'indicazione sulla scheda della elettorale obbliga in un certo senso politicamente il capo dello Stato a fare una scelta che è quella indicata dalla, e questa secondo me non si dovrebbe fare. E in ogni caso, siccome tutti dicono chi vuole la Repubblica presidenziale, semipresidenziale, vuole conservare la Repubblica parlamentare, questa questione bisogna deciderla, perché un paese non può stare nell'incertezza di che cosa è. E quindi tanto vale provare a cambiarla la Costituzione, quindi convergere, perché sennò non la cambiamo mai. No, se la si faccia, se non si bisogna fare, allora si dica questa è la Repubblica parlamentare, punto, in base alle leggi elettorali debbono essere adeguate a quella che è la Costituzione, la Repubblica parlamentare. Seconda questione. Ecco, la interrompo un secondo perché poi torniamo sulla seconda questione subito dopo la cosa. Però ci tenevo a sentire l'opinione al volo di Cossiga. Secondo lei è possibile immaginare di tornare indietro sulla legge elettorale? Cioè rimaniamo sullo schema parlamentare, visto che la Costituzione non riusciamo a cambiarla, però a quel punto leviamo anche l'indicazione del nome. Se non togliamo la Costituzione, cioè se non togliamo di mezzo questa legge equivoco, come le leggi equivoci del comuni, delle province, delle regioni, dove si è voluto fare il regime presidenziale, ignorando che nel regime presidenziale tutto il potere esecutivo dell'esecutivo e del cosiddetto legislativo, c'è soltanto il potere legislativo, e che per esempio il Presidente della Repubblica non interviene alle discussioni all'interno delle commissioni, si invita a prendere il tè. Dice giustamente Macaluso che questa struttura, ma ce n'è anche un'altra: se noi dovessimo applicare la Costituzione, i senatori a vita e i giudici costituzionali li dovrebbero nominare il governo, perché la Costituzione dice che nessun atto del Presidente della Repubblica non è valido se non è controfirmato dal ministro proponente, non dal ministro competente. Poi, siccome il primo Presidente della Repubblica era Einaudi, che fu una benedizione di Dio per De Gasperi, De Gasperi lasciò nominare il senatore a vita, tra cui uno che lui non voleva, qual era Luigi Sturzo. Ora, poi noi abbiamo avuto un'esperienza che è stata fatta saltare insieme con grave danno da Prodi da una parte e da Berlusconi dall'altra, quella della Commissione d'Alema, che aveva votato quasi tutto all'unanimità. E per iniziativa di un caro deputato Rifondarolo aveva deliberato per la separazione delle carriere e per il regime semipresidenzialista. Una volta che io trovai Silvio Berlusconi, mio caro amico, a favore del quale però io non ho votato mai se non adesso la fiducia per un fatto di cortesia, intanto avere una straordinaria maggioranza, io gli avevo sempre detto: lascia stare altre proposte, prendi i risultati della commissione D'Alema, metti su questo e sia l'opposizione che ti dica no, le commissioni fatte essendo presidente D'Alema e firmate da D'Alema non le vogliamo. Benissimo, questo però mi pare di capire che poi il centrosinistra, dopo quel momento e con grande soddisfazione dall'epoca, ha cominciato a dire: ma è stato Berlusconi a rimangiarsela, la Convergenza a ribaltare il tavolo. Su quelle tesi, secondo me, non è ipotizzabile che torni a breve su quelle soluzioni tipo appunto la separazione, magari, questa è la mia personalissima opinione. Eccoci tornati in studio. Panza in linea? Sì, ancora in linea Panza? No, non è in linea, è caduta la linea. E allora io torno a questo punto da Francesco Cossiga, poi torno su Macaluso, ma a Cossiga faccio una domanda esplicita: ma ci dobbiamo aspettare da Pierluigi Bersani di essere, come molti dei critici lo hanno dipinto in quest'ultima fase, cioè un po' spento rispetto all'uomo delle liberalizzazioni delle lenzuolate, è tornato una specie di, lo dico con rispetto, ma insomma colleghi hanno usato formule anche più esplicite, un burattino di D'Alema, cioè è semplicemente un burattino di D'Alema, lei che dice? La campagna elettorale di un partito, gli altri che può dire domani che sarà segretario del partito. Lui adesso parlava a chi lo doveva votare. Ma siccome l'eterna lotta tra D'Alema e Veltroni nel dopo Occhetto, mi pare che siamo, molti credono che sia ancora quella aperta, molti pensano che adesso definitivamente con l'ultimo candidato del post Veltroni è risolta, però così facendo lui ha un problema dei suoi deputati e senatori cattolici. Ma la massima parte dei deputati e senatori cattolici, con in testa Franceschini, sono più laici di lui, anzi sono laicisti. Non dimentichiamoci che nella storia d'Italia si è avuto un solo caso in cui 60 parlamentari hanno indirizzato una lettera al presidente della Conferenza Episcopale Italiana dicendogli: noi nelle materie parlamentari rispondiamo noi stessi. E lui così avrà una qualche difficoltà, però guardi, i cattolici non democratici lo sono lo stesso, ma i cattolici che si credono impegnati dalla dichiarazione della congregazione della dottrina della fede firmata da Josef Ratzinger sull'impegno dei cattolici in politica, per cui liberi delle cose puramente tecniche, delle cose etiche, le cose etiche sono trattabili, essi devono seguire la loro linea in quanto membri della Chiesa, non la linea della Chiesa. Beh, credo, per i conti che ho fatto io, che ci saranno 4-5. Gli altri cattolici, con in testa Franceschini e Rosibindi, anche se volesse fare il matrimonio tra i gay, anche fra due o tre, non troverebbe nessuna difficoltà. Certamente, quindi diciamo, mentre la Binetti forse, ma insomma stiamo parlando di per casi individuali, ma lei si aspetta che Rutelli se ne vada, Presidente Cossiga? Di pensare all'abolizione del concordato, o cosa ancora più delicata, l'otto per mille, ecco, quelle cose no, ecco, se no nessuno di questi può tornare al suo parrocco. Ma lei pensa che Rutelli se ne andrà, Rutelli e Fioroni invece? È da tempo che io non li trovo, non li vedo. Ho sentito ieri Francesco per una cosa però relativa al suo ufficio. Non abbiamo parlato anche perché loro, ma io credo che se ne andranno al massimo, grazie a pensare, 1, 2, 3, 4-5 persone alla Camera e forse una al Senato. Quindi insomma diciamo che la prospettiva Bersani è una prospettiva compatta secondo Cossiga. Ma Caruso, il problema del rapporto con il centro come problema distinto del rapporto con i cattolici, perché qui quando dico centro intendo dire l'UDC, il Casini, se esce qualcuno che poi va in quella direzione per un'alleanza, non parliamo adesso della questione cattolica sui dogmi e sulla bioetica, diciamo verso il centro. Lei da Bersani cosa si aspetta? Perché in realtà questa parte del mondo politico, che pure è in opposizione a Berlusconi netta in Parlamento, spera molto più da Bersani di quanto non sperasse dai veltroniani. Perché secondo lei? Ma perché Bersani ha subito detto che lui pensa che un'alternativa reale è possibile a Berlusconi, il quale a sua volta è alleato con la Lega, perché non è che Berlusconi è solo, si vede come pesa l'alleanza con la Lega, quindi non è vero che c'è un partito solo, lì ci sono due partiti, c'è lui e c'è la Lega, e dentro il PDL ci sono due o tre partiti, perché poi AN fa per conto suo, o comunque una parte di AN fa per conto suo, quindi pensare che solo i DS da soli fanno alternativa addirittura a una coalizione, perché quella di Berlusconi è una coalizione, è un errore. Quindi giustamente, io spero che lo faccia, Bersani ha detto no, dobbiamo fare una coalizione, il centro-sinistra col trattino, come dice sempre Cossiga, il centro-sinistra col trattino, nel senso che c'è una coalizione che concorda un programma, indica un candidato, fa magari le primarie, fuori quello che vuol fare, un candidato alla presidenza e porta questa coalizione in alternativa alla coalizione di Berlusconi. Questa è la strada che deve percorrere, e soprattutto deve chiarire, qui è stato accennato, il suo rapporto con Di Pietro, perché Di Pietro è diventato oggi quel peso che ha, perché Veltroni l'ha messo come voto utile. Bravo Macaluso, sono d'accordo. Questo è il punto, ha detto che il suo voto era un voto utile facendo l'alleanza, mentre non l'ha voluta fare con i socialisti, e quindi era un voto inutile e furono sconfitte, e l'arcobaleno era un voto inutile e arrivarono al 3,5%, con l'alleanza dissero questo è un voto utile per l'alternativa, e dal 2% gli si è regalato il quorum e tutto lo spazio politico per fare quello che sta facendo, e sono d'accordo. E immediatamente ha cominciato il ricatto nei confronti del PD, una cosa non lo dica lei, io dico che da manicomio, ma secondo su una posizione non molto, cioè da giornalista che parla. Cossiga, vorrei capire una cosa, lei che si aspetta dopo questo bel regalo al Di Pietro, che Di Pietro venga ridimensionato? A me pare un po' difficile, non so se l'ha sentito ieri da Fazio il programmino che ci ha fatto Di Pietro, lei che dice? Presidente Cossiga? Dunque, io ho sentito, me ne sono spaventato anche perché è un bugiardo, e perché non gli vogliono, lui non vuol dire perché lui si è dimesso dalla magistratura. Ecco, e credo che almeno in 50 lo sappiamo in modo certo, anche io in una causa in cui lui fu condannato e pagò le spese davanti al Tribunale Penale di Brescia, io ahimè fui chiamato come teste che voleva essere neutrale e divenne invece a carico. Oh, e poi la cosa che mi ha preoccupato, perché lui sta allevando una serie di magistrati, perché ieri ho sentito un magistrato della Direzione Nazionale Antimafia della Calabria che ha detto che i governi parlamentari, sia di destra che di sinistra, sono tutti per paralizzare la magistratura, e sono, ha chiarito, sia ben detto, sia di destra che di sinistra, per paralizzare la magistratura e per non mandare i ragazzi a scuola in modo che crescano ignoranti. Sì. Hai capito? E questo signore domani potrà giudicare me o lei. E questo è il bel regalo che ci fa Veltroni. Secondo me per questo bisogna dire viva Bersani. Vi leggo alcune righe dal libro Francesco Cossiga, Nuovissime picconate, su questo punto. Perché a un certo punto Claudio Sabelli Fioretti che fa le domande a Cossiga, gli dice: sei troppo duro con Di Pietro. Cossiga così gli risponde: sai perché si è dimesso dalla magistratura? Lui andò da Ghitti, il GIP, e gli confessò i 100 milioni, la macchina, le cause alla moglie, tutte queste cose. Allora Ghitti disse: guarda Di Pietro, penalmente tu te la cavi perché la tua condanna sarebbe la demolizione di Mani Pulite, però non so come ti va al Consiglio Superiore. Questa è la chiave delle dimissioni di Pietro dalla magistratura. Ohimè, il tempo è passato molto velocemente, molto ci sarebbe da dire ancora. Chiamerò ancora gli ospiti di oggi, Emanuele Macaluso, Francesco Cossiga e Giampaolo Pansa, che ringrazio molto. Intanto grazie a voi che avete chiamato, grazie a regia Pietro Lacorte, in redazione Alessandro Marcutulli, da Linea Generale Radio, appuntamento a domani. 9 in punto, la versione di Oscar.